Oh, amo, guarda, mia madre è troppo boomer, veramente. Sì, lo so, tutte le mamme sono boomer, anche la tua, immagino. Ho capito. Sì, è solo che l'altro giorno, hai capito? Cioè, mi è troppo cringe. No, non si può parlare con sta gente. Poi, cioè, se io, non lo so, lei mi becca, magari. Con la mia crush, che ne so, capito? E poi dopo, cioè, ma veramente, oh, che trigger mia madre, che palle. Sì, hai ragione. Ciao, amore, ci sentiamo dopo. Benvenuti a Dedicato! Benvenuti a tutti! Bene, oggi è una puntata spumeggiante perché parleremo di linguaggio giovanile. Benissimo, ragazzi, abbiamo da divertirci! E allora, quando qualcuno mi dice la mia crush, come sei cringe, boomer, vabbè, boomer ormai lo sappiamo anche noi boomer, no? Cosa vuol dire? E poi, che ne so, insomma, shippare. E poi abbiamo oh slay, oppure vabbè, bro, fra, amo, tutti questi modi che hanno di chiamarsi. A Bologna c'è anche bella vecchio, non so se questo è nazionale o se ce lo teniamo per noi, però sappiate che insomma dobbiamo comunicare con questi giovani, soprattutto noi di Dedicato che abbiamo una trasmissione fatta insieme ai giovani, con i giovani, per i giovani, cioè bisogna che capiamo che cosa dicono. E spesso e volentieri mi trovo in studio appunto a dover discutere e capire e farmi tradurre queste parole assurde. Adesso ormai mi sono entrate un po' in testa, ma perché sto diventando meno boomer di quanto fossi prima di Dedicato? E quindi, senza contare il fatto che, appunto, al di là del nostro staff, abbiamo anche la mascotte qui 24 ore su 24 che sta iniziando piano piano ad adeguarsi al linguaggio giovanile. Quindi, io adesso manderei un brano e poi lascerei la parola direttamente ai nostri fanciulli che ci spiegano un po' cosa vogliono dire e come lo dicono. Ecco, anche questo è fondamentale. Killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa. La Crash, e la Crash mi ha chiesto di uscire, ma visto che eravamo già usciti, la Crash non mi poteva chiedere di uscire, e quindi visto che la Crash mi chiedeva di uscire, amo, tutto bene? No, ovvio che no, che non è tutto bene. La Crash mi ha chiesto di uscire anche se eravamo usciti, questo qua è un po' cemino. Oh, ma stai chill. Chill che? Chill la catta. Ma che stai di, amo? Ciao! Ciao! Ciao, quanti anni hai tu? 11. Ok, e so che hai un fratello più grande, giusto? Che quanti anni ha lui? 15. Ok, e quando parli con lui, parli in italiano normale oppure nel vostro linguaggio della generazione Z? No, parliamo un po' nel nostro linguaggio generazione Z. Infatti ogni tanto nostra mamma ci dice... Ma cosa sono tutte quelle parole lì che non capisco mai niente di quando parlate? E ci credo, poveretta, lo capisco anch'io, ma c'è tipo una parola ricorrente nei vostri dialoghi? Stai chill o bro stai calmo? Ah, ok, va bene, grazie. Grazie anche a te. Magic in the air. Head to toe, so clear. Bruno Mars, mascotte, siamo tornati in studio. Miau, molto bene. Miau. No, non è il compleanno di nessuno oggi, però è io il compleanno del gatto. Mascotte, sei ubriaca oggi? Del gatto fuori dalla finestra. No, il nostro amico gatto è nato ad agosto, quindi non c'entra assolutamente nulla. Ciao gatto, il nostro gattun, lo miau. Salutiamo perché gli vogliamo un sacco bene. Ciao, miau. Gatto noto abitante della Bolognina da non so più quanti anni, inquantificabili. Un miliardo. Di storia familiare milanese, ma adottato bolognese al 100%. Quindi, volevo dire una cosa, mascotte, però tornando a noi, cioè, prima mi era parso di sentire, no, mentre parlavi con la tua migliore amica, che tu hai una crush che ti ha chiesto di uscire, ma eravate già usciti, c'era non sta storia... Non sono affari tuoi! No, aspetta, allora, adesso, non sono affari miei, cioè, nel senso, sono affari miei! La mia crush sono affari miei e non te ne deve fregare nulla! No, vabbè, adesso questa risposta si dà... cioè a qualcuno di cui non ti interessa. Io sono una figura importante per te nella tua vita, nella tua crescita, nel tuo sviluppo. Senti come parlo bene, forbito, anche in dizione. Cioè io ti pregherei di rendermi partecipe. Hai capito quello che ho detto? Parlo l'italiano, ti ho detto che sono affari miei. Ok, parla l'italiano. E quindi tipo, oh ma stai chill, la crush sono fatti miei. Tu non me lo dici? No, io so parlare italiano. Molto bene, grazie. Ma ascolta, questo mi rincuora, comunque non mi ha detto della sua crush. Indagheremo. Grazie, mascotte. Ciao. Mandiamo un brano? Sì. Tipo? Boh. Ah, perfetto. Coccodrillo come fa? Il coccodrillo come fa? Dalla mascotte. Come fa il coccodrillo? Addormentato se ne va sto coccodrillo. Ciao ragazzi, allora spiegatemi una cosa, questo linguaggio che avete voi oggi, non so, tipo tu quanti anni hai? 11. Ok, e tu parli normale l'italiano oppure aggiungi quelle parole tipo che noi... Voi ci chiamate boomer a noi, ma noi non siamo boomer, non ve lo vorrei dire. Noi siamo della generazione X, voi siete della generazione Z, quindi siete degli sbarbati. Questo linguaggio, che parole usate? Prova a dire. Allora, diciamo che comunque quello che diciamo noi è italiano, però un po' misto a dell'inglese, oppure con delle parole aggiuntive o delle lettere aggiuntive. E per esempio, posso farti qualche esempio di parola? Certo. Allora, per esempio chill, che deriva dall'inglese, vuol dire tranquillo, okay? Stai tranquillo, sereno. Okay. Poi bro, fra, tutte queste cose, questo termine deriva da fratello, quindi amico, compagno. Ok. Cos'è una crush? È una ragazza, un ragazzo che ti piace. Una cotta, insomma. Esatto, okay, esatto. Ok, e poi che ne so, mi hanno detto delle parole tipo snicciare. Snitch è uno spione, quindi tu dici un segreto e quello là lo viene a dire alla gente. Ah, uno spione? No, sì, veramente? Spione. Ok, sì. E tu pure parli in questo modo o parli normale? Un po' ni. Ni, quanti anni hai? 10. 10, ok. E ni, quindi parli un po' e un po', ma tua madre ti capisce quando parli... Certe volte, ok. Come la chiami tua mamma? Non boomer, vero? No, ma. Tu, ok. Altro linguaggio giovanile, ma, non mamma, non mami, come io la chiamavo mami ai miei tempi, no, ma, così. E tu invece quanti anni hai? 10. 10. E parli normale o parli come loro? Normale. Normale. Mi dici una frase normale, tipo, se a te va di... che ne so, uscire con i tuoi amici, però il tuo amico è troppo agitato, cosa gli dici? Stai chill, gli dici? No. No, cosa gli dici? Stai tranquillo, non succede niente. Stai tranquillo, non succede niente. Sì, grazie, uno che parla come noi. Evviva! Ok, ragazzi, ciao, grazie. Ciao. Bene, abbiamo ancora dei bambini old style, quindi, col linguaggio, quello, insomma, da vocabolario, diciamo... Allora, parliamo invece di uno spettacolo che riguarda proprio lo scarto generazionale. È uno spettacolo prodotto da Agenda, Produzioni per lo Spettacolo, dove in scena c'è anche la mascotte, grande mascotte, perché poi oltretutto ha partecipato anche alla scrittura di questo spettacolo, quindi veramente è stato un percorso molto interessante. Lo spettacolo si chiama Noi Due in Scena, sono una mamma e una figlia che raccontano la loro storia tra generazioni, quindi accompagnate da musiche più o meno famose, cantate live, ma anche no, nel senso che alcune sono ballate in live, alcune sono suonate con strumenti a percussione e varie. Non sto a raccontarvi perché è tutta una sorpresa. Lo spettacolo è in programmazione in quest'inverno a Bologna, vi daremo notizie in merito. E quindi niente, volevo anche promuovere questo spettacolo con protagonista la mascotte, Noi Due in Scena. Trovate informazioni sullo spettacolo sul sito www.agendaproduzioni.it. I bambini nell'asilo stanno facendo casino, ci vuole qualcosa per tenerli impegnati, ci vuole un dolcino, ci vuole lo spiro, ci vuole un dolcino, ci vuole lo spiro. Dice che è stata una disattenzione della maestra e subito uno si è buttato giù dalla finestra. Dalla finestra, oddio che cosa si può inventare, oddio che cosa possiamo dire, quando sua madre arriverà, si incazzerà. Si incazzerà. Asilo Republic. Certo che lavorare in un asilo dove c'è sempre casino, tranquilli qui non si può stare per niente, ci vuole un agente, ci vuole un agente. E allora andate con la polizia, che la situazione ritornerà come prima, più di prima, taverò, yeah, taverò, più di prima ci sarà ordine e disciplina, e chi non vuole restare qui, vada in collina, vada in collina, e se qualcuno la vuole menare con quella vecchia storia sull'educazione, abbiamo già bruciato tutti i libri, bruciamo lui, yeah, bruciamo anche lui. I bambini nell'asilo non fanno più un casino, sono rimasti molto pochi, nuovi fuochi, nuovi fuochi, nuovi fuochi, fuochi, fuochi, fuochi, fuochi, fuochi, fuochi, fuoco. Ebbene, comunque diamo correttamente l'informazione, perché noi boomer di Dedicato in realtà boomer non lo siamo per nulla, perché siamo della generazione X ed è stata quella generazione che ha inventato ed è stata precursore di tutta una serie di atteggiamenti e di modalità di socialità che ancora oggi vengono applicate nella generazione Z, dei nostri piccoletti praticamente. Quindi boomer gliel'ho andata a dire poi a quelli che sono boomer. A noi non vi azzardate perché, come dire, vi abbiamo insegnato come si fa. Poi le evoluzioni non sempre sono positive. Quindi noi abbiamo avuto i Maragli, che erano una figura portante della nostra generazione. Voi della generazione Z invece avete i Maranza, che sono il 2.0 dei Maragli. E purtroppo questo tipo di evoluzione, diciamo, non è stato proprio positivo, come abbiamo dimostrato in una puntata lo scorso anno dedicata completamente ai Maranza, con tanto di sondaggio su chi sono e cosa fanno i Maranza. Quindi insomma, adesso non dico di documentarvi e voi boomer, però ecco, sapere chi è un Maranza oggi è importante, anche perché ne siamo circondati. Purtroppo questa mattina in autobus un paio di Maranza parlavano tutti così, cioè bella bro, e purtroppo dobbiamo comunicare anche con loro e capire la loro modalità. Quindi ecco, abbiamo una serie di cose però interessanti che abbiamo letto in giro e ne abbiamo parlato anche, perché questo nuovo linguaggio sono da tenere in mente se si vuole tradurre un'intera generazione, che è la generazione Z, o detta anche gli Zers. Cioè, un terzo di questa generazione utilizza questi termini un po' particolari quotidianamente, lo fa molto spesso un quarto di questa generazione E addirittura il 23% lo utilizza sempre, quindi diciamo che i giovani tra gli 11 e i 25 anni circa sono tutti tarati su questa comunicazione, su questo tipo di linguaggio. Queste nuove parole diciamo che sono anche legate abbastanza alla lingua inglese, no? Secondo loro è una modalità più semplice di comunicare perché vanno a utilizzare delle parole inglesi un po' o italianizzate o comunque utilizzate per comunicare meglio, secondo loro. Questo sempre, ovviamente, queste sono dichiarazioni dei ragazzi. E addirittura inserirebbero queste parole nei dizionari perché si utilizzano veramente tantissimo. A questo punto non ci resta che ascoltare i nostri giovani e provare a capirli realmente. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. E anche questa settimana siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringraziamo tutti i ragazzi e i bambini che insomma hanno dato il loro contributo su questa tematica importante che è il linguaggio giovanile di oggi, che non appartiene più a tutti purtroppo e che in tanti comprendono a fatica, ma spero che dopo questa puntata e dopo l'aiuto che ci hanno dato i nostri fanciulli sia più chiaro qualcosa per tutti, insomma. Quindi grazie davvero ai nostri ragazzi per averci dato delucidazioni su cosa vuol dire chill, cosa vuol dire snicciare, cosa vuol dire crush e tutti questi fantastici termini nuovi. Ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13, sempre su Radio Città Fujiko con Dedicato. Ciao! Manca giusto un'emozione dedicato all'amore, lascia che sia così. Ai miei pensieri, a come ero ieri.